si va con chi la vive con te mio bene anima mia e me li dura ancora la pazzia caro bene adorato adagio un poco a venere mio nome io son mercurio alato resta non fuggirmi dal mio che non ravvisi la tua fedele amante la bella Erminia fra l'ombrose piante qui con costoro divengo pazzo anch'io me la vorrei sfilar signor Mercurio signor Erminia presto osservate vedete di là oh che gran bella cosa di qua che cosa portentosa